CRM. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Radio Service. Buon pomeriggio, ben trovati. Grazie, grazie, grazie per gli applausi, troppo gentili. Bene, buon pomeriggio, come anticipato, iniziamo anche oggi questo appuntamento su CRMP Radio con Radio Service, la vostra guida per l'estate. Vivremo assieme queste tre ore degli ultimi giorni d'agosto. Ormai ragazzi, insomma, è andata. Sembrava ieri che fosse iniziata l'estate, in realtà già siamo al 23 di agosto. Sì, vabbè. Quindi comunque cercheremo di sfruttare al meglio queste tre ore, questi ultimi giorni di vacanza che per molti di voi rimangono. Lo so, non dovevo forse ricordarvelo, l'ho fatto. Comunque cercheremo di tirarvi su di morale con la nostra musica, con l'informazione locale, con lo sport, ovviamente le notizie sportive, con le informazioni sul meteo, perché è sempre importante rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche. Poi vi parleremo di eventi, vi daremo le dritte su cosa fare questa sera, domani sera, insomma nei prossimi giorni, e avremo una telefonata in diretta molto particolare con un amico che sarà protagonista a Cefalù il 27 di agosto, un amico che fa cabaret, però non vi voglio svelare niente, è una bella sorpresa, ne parleremo più tardi. Poi vi daremo chiaramente anche le dritte per fare shopping, quindi cosa acquistare, quali sono i prodotti più di tendenza, e poi ci metteremo in collegamento con le amiche di Serio Moda per parlare di abbigliamento di questa sera, scoprire quali sono insomma le dritte per come vestire, cosa metterci per l'uomo e per la donna, con Anna e Lorenza di Serio Moda a Cefalù in via Giglio 2-4. Quindi questo è quanto altro all'interno di Radio Service con Filippo Brancato e Max Lanotte. Ciao Max, buon pomeriggio, e quindi iniziamo subito senza perdere tempo con la prima canzone di questo pomeriggio. Poi vi ricorderò anche tutti quanti i vari modi per mettervi in collegamento con noi. C'è internet, c'è Facebook e compagnia di centro. Psy o PSI. Psy, più bello. Gentlemen, Radio Service inizia. Gentlemen, gentlemen. Dal Giappone con furore PSI. Sulle mani! Sì, sì, poi parleremo anche di un evento che avrà luogo presto a Cefalù, Bene, adesso invece voglio parlare con voi, perlomeno darvi le anticipazioni di quelli che saranno gli argomenti di questo pomeriggio. Dunque, parleremo di informazione locale, nel dettaglio parleremo di Castelbuono, rubava energia elettrica alla vicina di casa, carabinieri arrestano 53enne. Ecco, purtroppo l'hanno beccato, purtroppo per lui chiaramente. un tunisino 53enne, ne parleremo più avanti. Poi parliamo di lavoro, cantieri di lavoro, dalla pulizia di strade e spiagge al rifacimento dei marciapiedi, un'opportunità per il comune di Cefalù e per i cittadini disoccupati. Parleremo ancora di Cefalù, arriva il commissario a rischio scioglimento del consiglio comunale, lo sapremo a breve, insomma, cosa accadrà. Poi parleremo di sport, parliamo di un ingaggio per 109 milioni di euro, ragazzi, mica bruscolini, per il Real Madrid con Bale, il fuoriclasse gallese del Tottenham, sarà alla corte di Ancelotti, ma ne parleremo dopo. Parleremo anche di MotoGP, Brno, Lorenzo in testa nelle libere, Rossi è quinto. Parleremo ancora di Formula 1 con Alonso e Raikkonen, no problem nel 2008, Massa li stava davanti, insomma ci sono delle situazioni un po' così in bilico fra i piloti di Formula 1, ne parleremo dopo. Parleremo anche di cucina, quest'oggi vi proporrò una bella cucina fresca fresca, il pesce spada e pere, avete mai provato? No, stasera ne parleremo. E poi ovviamente i vari aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche e meteorologiche di domani e di domenica, quindi questo weekend. Va bene, tra poco ne parliamo. La musica su CRM è sempre protagonista. Lei è tornata all'attacco. Parliamo di Caro Emerald. E questo è un Liquid Lunch. Buon pomeriggio. Sempre questa è Radio Service in diretta su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Service si sente e si vede. www.crmhappyradio.it. Flashback. Disco flashback di oggi, le Bananarama con Venus. Possiamo dire, insomma, loro erano forse l'anticipazione delle girl band, no? Erano gli anni 80 e questa canzone, che tra l'altro è una cover degli anni 70, originariamente degli Shocking Blue, una band olandese, ebbe un grandissimo successo e diventò, insomma, una delle canzoni più in voga proprio nel periodo degli anni 80, come, diciamo, Eurodance New Wave come genere musicale. Il nostro primo flashback di oggi. Adesso continuiamo invece con la musica dei Savoir Adore, Dreamers, su Radio Service. It's a game. dà proprio la sensazione di sogno questa canzone, cioè di rilassamento cerebrale. Bella radio d'altra parte, insomma, anche questo, no? A differenza della televisione, dove dobbiamo metterci davanti e seguire sia con gli occhi che con le orecchie qualcosa, la potenza della radio è proprio quella di permettervi di fare altro, stare anche con gli occhi chiusi e ascoltare la musica. Ci avete mai pensato a questo piccolo dettaglio? Viva la radio! Vabbè. Allora, adesso ci dedichiamo all'informazione locale. Come anticipato, abbiamo parlato appunto di Castelbuono, questa notizia che appunto la stazione locale di Castelbuono ha tratto in arresto un cittadino tunisino residente nel comune Madonita, poiché è ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. Nell'ambito di appositi servizi di contrasto ai reati contro il patrimonio, coordinati dalla compagnia di Cefalù, i carabinieri della stazione di Castelbuono hanno proceduto a vari accertamenti per appurare eventuali illeciti relativi all'utilizzo di energia elettrica. Fra questi, i militari hanno rilevato che l'impianto elettrico in uso di una persona che poi è stata arrestata per appunto il suo tunisino era scollegato dal relativo contatore ed allacciato a quello di un'abitazione vicina. Hai capito? Questa è la notizia del furto, scusate, per questo la notizia del furto negli ultimi tempi si era vista recapitare delle bollette con delle somme spropositate rispetto ai consumi che aveva come al solito. I controlli degli uomini dell'arma hanno fatto emergere che il soggetto percepiva indebitamente l'energia elettrica, molto probabilmente dal mese di aprile di quest'anno. Pertanto Kuba Rashid, nato in Tunisia, 53enne operaio, veniva dichiarato in stato di arresto per furto aggravato. Parliamo adesso di Cefalù, opportunità di lavoro per i cittadini disoccupati. Infatti da venerdì 22 agosto sono iniziate ad arrivare le richieste dei cittadini per accedere ai cantieri di lavoro finanziati dalla regione siciliana, una nuova forma di sostegno al reddito ideata dal governo regionale per tendere una mano alle famiglie meno abbienti e allo stesso tempo mettere in atto interventi nei comuni. L'iniziativa consiste nell'erogazione di un sussidio a componenti di famiglie povere in cambio di prestazioni di interventi di pubblica utilità. Un'iniziativa lodevole, si parla di attività come il rifacimento di marciapiedi, la pulizia di strade e di spiagge. Sono 50 i milioni stanziati per questa proposta, che verranno divisi in indennità pari ad un minimo di 600 euro mensili per una durata dei contratti di un massimo di 3 mesi. Entro settembre dovrebbe partire, secondo l'assessore Buona Fede, tutto l'iter per la messa in opera degli interventi e l'erogazione dei sussidi. Le 20.000 persone che si trovano in condizioni di forte disagio economico avranno un mese di tempo dalla pubblicazione della direttiva in Gazzetta Ufficiale per presentare le proprie istanze. Quindi, signori, datevi una mossa, c'è un'opportunità per fare qualche soldo. Parliamo ancora di Cefalù. Arriva il commissario, a rischio scioglimento il consiglio comunale. L'opposizione torna in aula e boccia il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. Numerosi colpi di scena al consiglio comunale tenutosi ieri sera. Per la prima volta dopo 3 mesi, infatti, l'opposizione, pur non abbandonando la protesta contro il presidente del consiglio, ha deciso di riprendere a seguire i lavori consiliari. Fra i punti all'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2012. Contrariamente al bilancio di previsione, documento di pianificazione economica e di programmazione politica che raccoglie e coordina le richieste dei singoli assessori, il rendiconto o bilancio consuntivo è il documento predisposto dalla giunta comunale nel quale sono certificate le entrate e le spese sostenute dall'ente nell'esercizio finanziario precedente. Quindi ancora movimento al comune di Cefalù, staremo a tenervi aggiornati. Parliamo fra pochissimo di sport, di calcio, di Formula 1 e di MotoGP. Adesso la musica con Robin Thicke e Blurred Lines, con una bella collaborazione con T.I. Farrell, questo rapper molto bello, molto molto carino. To domesticate you, but you're an animal. Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. Flashback. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Disco flashback. Non preoccuparti. Don't worry. Don't worry. Sii felice. Be happy. Be happy. Era Bobby McFerrin. Era il 1988, questo è stato un singolo che divenne la prima canzone a cappella a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 e tenere quella posizione per ben due settimane. Poi tra l'altro l'anno successivo, nel 89, durante la cerimonia dei Grammy Awards, Don't Worry Be Happy vinse anche il riconoscimento come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance maschile pop. Pensate un po'. Gli eventi sportivi. Bene, bene, parliamo di sport. Allora, parliamo di sport e parliamo di calcio. Eh sì, ragazzi, veramente siamo arrivati a cifre esorbitanti. Vale al Real Madrid per 109 milioni di euro. È l'acquisto più costoso della storia. Il fuoriclasse gallese del Tottenham sarà alla corte di Carlo Ancelotti. Ormai sembra veramente questione di ore per l'annuncio ufficiale. Siamo a Londra, ore decisive appunto per il passaggio multimilionario di Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid. L'affare del secolo si potrebbe chiudere a 109 milioni di euro soltanto. Una cifra da capogiro con la quale gli Spurs intendono rinforzare la propria rosa. L'operazione sarebbe in addirittura d'arrivo e nell'affare per la cessione dell'attaccante gallese potrebbe essere inserito anche Fabio Coentrão. Saremo a vedere, ragazzi, 109 milioni. Parliamo adesso di MotoGP. Dopo la prima sessione di prove, il mallorchino Lorenzo precede Pedrosa per pochi millesimi di secondo. Valentino è a più di mezzo secondo. Dopo la prima sessione di prova, infatti, a Brno, sede del MotoGP della Repubblica Ceca, decimo appuntamento stagionale della MotoGP, c'è in testa Lorenzo Jorge Lorenzo, che con la Yamaha ha staccato il miglior tempo con 1.56.698, alle sue spalle Pedrosa, secondo a 343 su 1000 con la Honda HRC e poi Crutchlow, terzo con 360.000 con la Yamaha Tech 3 e Marquez, il leader del mondiale, quarto con 422. Valentino Rossi è quinto a poco più di mezzo secondo, Dovizioso ottavo, Lannone undicesimo, Pirro dodicesimo. Parliamo di Formula 1. Lo spagnolo Alonso, prima di Spa, commenta: Kimi in Ferrari, mai avuto problemi con alcun compagno, il mondiale resta difficile ma dobbiamo crederci. Montezemolo, con lui ottima relazione, gli sono arrivate cattive informazioni sulle mie dichiarazioni. Un po' di maretta all'interno della Ferrari, eh? In mezzo alla tempesta non c'è nessuno più calmo di lui, perlomeno così pare, perché alla fine tira e ritira qualche crepa nella corazza del samurai. Fernando Alonso viene fuori parlando del suo futuro alla Ferrari, tanto che quando gli hanno chiesto se l'anno prossimo correrà ancora con la rossa, la sua risposta è stata con un sorriso enigmatico. Saremo a vedere, peccato, perché secondo me Alonso è davvero un grandissimo pilota, forse non è stato sfruttato nel modo migliore, manderei forse a casa qualcun altro. Sono un po' di parte, ecco, non me ne vogliate. Vabbè, chiusa la parentesi dello sport, continua la musica. Give me

Service in diretta su CRM Happy Radio con Filippo Brancato e Max Lanotte. Flashback. Flashback era il 1985. Loro erano i Righeira. Questa è L'estate sta finendo. Una canzone, ma una canzone che ancora oggi si sente abbastanza spesso. Pensate che con questa canzone loro vinsero il Festival Bar del 1985. E tra l'altro furono anche invitati poi al Festival di Sanremo nell'86 con un'altra canzone. Insomma, che comunque ebbe meno successo di questa, che comunque gli aprì la strada, diciamo, al successo. Adesso si sono ovviamente perso le tracce. Io non ti scorderò. Rimane comunque una canzone, insomma, italiana di successo. Adesso invece un'altra canzone di successo, probabilmente definita la hit, la canzone più trasmessa di quest'estate. Parliamo di Daft Punk con Get Lucky. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Service si sente e si vede. www.crmhappyradio.it.

kisses on the shore might be my love Radio Service è anche su Facebook. Cercaci Radio Service CRM. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double dee dee down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes double dee dee down. La splendida voce di Amy Winehouse in questa cover di The Girl from Ipanema. Lei è stata considerata una, assieme a Duffy e Adele, una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. È un bel complimento, devo dire, davvero. Una sorta di As the Jets, questa versione di Girl from Ipanema. Bella, bella, bella. Arrivano i Black Eyed Peas con Don't Stop the Party. Questo è Radio Service su CRM. The party. This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I've won. Don't stop the party. Don't stop, every day I'm partying. You can find me at the club, popping bottles, mingling. Ladies dancing to the jam, acting naughty, man oh man. Got me in the mood again, at the party, partying. Yeah, I keep it happening, taking shots, whatever, man. Party like a veteran, music is my medicine. You won't find me settling, can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end, yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up, we red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up, tell that DJ turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. Black Eyed Peas al lavoro sul nuovo disco, previsto insomma per l'autunno questa nuova canzone, questo nuovo singolo che a quanto insomma sostengono le varie case discografiche che lo produrranno sarà un grandissimo successo, staremo a vedere. Vabbè, parliamo di meteo, allora previsioni per domani. C'è l'imprevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28 gradi e la minima di 24. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Al pomeriggio deboli e proverranno da nord. Mare quasi calmo, allerte meteo previste, AFA. Staremo a vedere. Previsione per domenica invece. Dopodomani c'è l'imprevalenza sereni o poco nuvolosi con transito di velature dal pomeriggio. Non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà 31 gradi, la minima 25. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Al pomeriggio deboli e proverranno da nord e nord-est. Mare quasi calmo e si parla sempre di quest'afa che dovrebbe arrivare subito dopo dei momenti di perturbazione. Staremo a vedere. Arriva Caparezza, Legalized Premier. Questo è Radio Service su CRM, buon ascolto. I want to run Monday. Mando el fumo de lado porque son un casta maño. Mando el fumo de lado pura con la canasta al bar. Los champagne en la pelicha de hasta cana. Que me quede como es simpático que pasa más. Yo amo para el premier, mi casa come perrier. Cuando era mami no vestido como el maniquino de la tele. Rapemo le burago, britis furia chauffeur. Otto pepi si terco la auricola y el taller. Está en la escuela elemental, el furbente. Legalizzazione come un super saiyan. Mi atteggio da messia ma non mi fido di Pietro. Io mi fido partito, solo di chi dice firmo il decreto. Ma se vengo pendagliato di pedine a Cueto, rimangio tutto con un ruminante nel carrubetto. Così ricco che i miei soldi io li do alle fiamme, li do alle fiamme, le fiamme gialle. Invece di arrestarmi saltano alle spalle di chi ho la pioggia giona come Bob e Molle. Chi mi accusa di tangente diventa seccante, chi doveva stare zitto diventa squillante. Ma vado dal mio medico curante che mi prescrive più di un antimicotico per il grande. E anche su Facebook. Cercaci Radio Service CRM. Flashback. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Preacher man, oh tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that glitter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your right. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your right. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for a yeah, yeah, so yeah. You better get up. Max, in questi ultimi giorni sei silenzioso, non ti sentiamo al microfono, perché? È un po' la stanchezza che affiora. Ah! Le serate sono belle, trovi l'energia, ma poi a lungo andare l'età. È vero. Ma sei giovane, quanti anni hai? 18, 19? Sì, no, ancora li devo fare 18. Ah, ecco, infatti. Era il flashback di oggi, Bob Marley con Get Up Stand Up. Eravamo nel lontano 1973, ragazzi, sono passati di anni, eh. Vabbè, continua la musica su CRM con Radio Service. Questo è il programma del vostro pomeriggio. Poi ci daremo appuntamento dopo le 18, ovviamente a lunedì, perché noi il fine settimana siamo in vacanza. Fra un po' parleremo con un amico al telefono, una sorpresa, eh? Adesso arrivano gli Empire of the Sun con Alive. Sun Live. Fra un po' parleremo di shopping, parleremo anche fra poco di eventi, a riguardo avremo una telefonata particolare con un tipetto molto molto simpatico, però non vi anticipo nulla, vi dico soltanto che sarà protagonista giorno 27 di agosto a Cefalù per la serata Cefalù Sorridente. Questa sì che sarà una bella serata, da scatasciarsi dalle risate. Forse, non lo so, si trova sul vocabolario scatasciarsi. Scatasciarsi, forse. No, non credo. Continua la musica, arriva la musica italiana con una rocker di gran classe. Parliamo di Gianna Nannini, questa è Scegli Me. Se non sai di che morte morire, scegli me, scegli me. E chissà dove andiamo a finire, scegli me, scegli me. Io lo so che te ne vai, non si vince senza perderci. Forse capirai che cos'è il dolore e quanto male fai con l'amore. Esci con me, esci con me. Non sai com'è bello impazzire, scegli me, scegli me. Se lo sai e non riesci a dormire, scegli me, scegli me. Radio Service in diretta su CRM Happy Radio con Filippo Brancato e Max Lanotte. The tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready. Against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? Era il 2011, lui era Martin Solvig con Ready to Go. Che ha sempre il suo perché questo pezzo. È vero. Anche se sono passati 2 anni, è comunque molto bello. Devo dire la verità, effettivamente. Vabbè, questo è Radio Service su CRMP Radio. Musica italiana con Niccolò Agliardi, The Hills. Ah, fino in fondo. Ho appena fermato il respiro un istante per non ascoltare il male che fa. Guardarti partire è l'abisso di fronte, ma a volte accettare è la normalità. Fino in fondo. Passando attraverso si esce da qua. Eppure ho imparato che un gesto consola. Divido una goccia di acqua a metà. Ma a volte una storia si spiega da sola. La porta si chiude e mi manchi di già. Fino in fondo. presente imperfetto, passato sarà. Fino in fondo. Presente strappato e futuro chissà. So solo gallerie, non ti devi spaventare. C'è un pezzo di strada nel buio da fare, si fa. Solo gallerie, non ti devi preoccupare. C'è un pezzo di strada nel buio d'andare, si va. E ho pure risposto ai miei occhi gelati. Che un vento di terra costante riaccende i falò. Confonde quel poco che so. Fino in fondo è l'unico modo di amare che ho. Sono solo gallerie, non ti devi spaventare. C'è un pezzo di strada nel buio da fare, si fa. Sono solo gallerie, non ti devi preoccupare. C'è un pezzo di strada nel buio d'andare, si va. Sono solo gallerie, non ti devi spaventare. C'è un pezzo di strada nel buio d'andare. Sono solo gallerie, non ti devi preoccupare. C'è un pezzo di strada nel buio da andare. C'è un pezzo di strada nel buio da fare, ci fa. Radio Service in diretta su CRM Happy Radio con Filippo Brancato e Max Lanotte. Yeah. come anticipato adesso, dopo una prossima canzone di Eros Ramazzotti, ci metteremo in collegamento con l'amico Francesco Scimemi, che sarà protagonista giorno 27 qui a Cefalù per la serata di Cabaret. Lui insomma è il comico, il mago di Antenna Sicilia, di Insieme, la trasmissione di Salvo la Rosa. Verrà a Cefalù, adesso lo intervistiamo. E chi non lo conosce? E infatti lui sta praticamente salendo sull'aereo. Quindi giusto una canzone di Eros Ramazzotti e poi parliamo con Francesco. Tra poco. Ramazzotti fino all'estasi all'interno di Radio Service. Adesso parliamo di eventi. Come anticipato, giorno 27 qui a Cefalù ci sarà uno spettacolo di cabaret intitolato Cefalù Sorridente. Avremo una serie di comici fantastici, fra i quali Francesco Scimemi. Francesco, buonasera. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Tra l'altro, Francesco, in questo momento è in partenza per... Dove vai? Sono di bello? Sono dentro l'aereo al 10C. Ah. Speriamo che non mi entrando i passeggeri, quindi devo anche parlare piano perché mi sto parlando con il giornale davanti perché non è slare. Senti Francesco, allora noi siamo ansiosi, insomma veramente non vediamo l'ora di poterti vedere dal vivo. Abbiamo visto quest'inverno, ti abbiamo seguito ospite da Salvo la Rosa, la trasmissione Insieme. Siamo veramente entusiasti di poterti guardare dal vivo a Cefalù giorno 27. Cosa c'è da aspettarsi da Francesco Scimemi? Ma guarda, quello che veramente ormai da 30 anni io porto avanti, la società si chiama Magicomio, quindi il pubblico sarà protagonista, ci sono un paio di cose nuove che ho inserito da poco e niente, ci devo divertirci come al solito. Ora mi dispiace, devo parlare così piano, ma mi... No, stai tranquillo. Stai tranquillo, anzi adesso chiudiamo, era giusto per fare un salutino veloce e farti sapere che siamo tutti pronti ad aspettare qui che tu arrivi, va bene? Assolutamente sì, venite a frotte perché ci sarà da divertirsi, guarda, ci sarà da divertirsi, ci sarà anche il famoso esperimento del supermercato che non anticipo. Ah. E poi sarà con me naturalmente il mio procione. Ah, è quello, è vero, non ce lo dimentichiamo. Va bene, Francesco, buon viaggio e a presto allora. Un abbraccio, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Giorno 27 agosto a Cefalù, veramente ci sarà da ridere alla grande. Francesco Scimemi, ma si porta anche il procione. Sì, c'è il procione, anche un etto di procione. Non è pro... Vabbè, vabbè. Continuiamo con la musica, arriva adesso Wake Up Matt con Emma Louise, My Head is a Jangle. Questa è Radio Service sul CRM Piredo, la radio che si sente e si vede. Siamo il vostro cicerone per questa estate. Buon ascolto. In a dark room, we fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming, dreaming about you, about us. See the pain in your eyes. I've been feeling, feeling for you, my love. And our bodies are tied, our shadows will dance. I've been aching, aching for you. Service si sente e si vede. www.crmpiredio.it. Yeah.

domandato quasi quasi ridendo. Quanti chilometri andati, quante notti al volante, inseguendo un sogno a metà. Adesso che sono grande faccio ancora domande, non si ferma la curiosità. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come riempire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. E allora fa che sparisca la nebbia e la luna tornerà a brillare. Fa che ritorni il sorriso nei pomeriggi da dimenticare. Fa che ritorni il lavoro e l'entusiasmo dei giorni migliori. E poi fa che ritorni la gioia e che si riaccendano tutti i motori. Baciami e portami a ballare, tu che sai come cambiare i giorni miei. Alex Britti con Baciami e portami a ballare. E portami a ballare. Mi preferisci in gonnellina o in pantalone? Alex, lo chiediamo fra poco a Serio Moda, cosa ci propone. Infatti, che è meglio. Infatti, infatti. Vabbè, la musica continua, ancora musica italiana con Francesco Rossi. È italiana? Quasi. Perché non ti sento? L'autore è italiano, ma il pezzo è internazionale. Ah, parliamo bel di disco. Musica da discoteca? Sì, oh, sì, discoteca. Sì, particolare, particolare. Paper Aeroplane su CRM all'interno di Radio Service. Ormai mancano pochi minuti alle 17.30. Parleremo di shopping con le amiche di Serio Moda. Poi parleremo di eventi. Come anticipato, parleremo anche di questo evento di cabaret di giorno 27. Ma non solo, perché ci sono delle belle cose di cui vi porteremo a conoscenza. E poi ci saluteremo e vi daremo appuntamento il prossimo lunedì, perché in fine settimana siamo in vacanza. Io e Max ce ne andiamo a mare. Tra l'altro è prevista pioggia per questo fine settimana. Perché dobbiamo andare a mare noi. Anche se io oggi bagnetto l'ho fatto, ecco, fra le 12 e le 13 con la paperella. Bravo, con la paperella anche senza. Sono andato a mare, per fortuna ho trovato un'ora di spazio, insomma, per fare un bagnetto. Devo dire che era veramente fantastico. Ce lo meritiamo un bagnetto, sì, insomma, tutta l'estate al lavoro. Mi è mancato, quest'anno mi è mancato il mare, però va bene così, insomma. Adesso arriva un po' di pioggia, poi secondo me settembre sarà un'altra estate da vivere fino a ottobre. Speriamo. Questa è Radio Service, ancora buon ascolto su CRM Happy Radio. Page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper airplane. You won't fly the cell phone seat, 'cause it didn't leave my room. But it always has someone else. Garbage man. Thank you. stay all night. Up and down, there it goes. Make it all night. It hasn't flown several seas to you, but it's on its way. It goes through the hands and someone else to find you, girl. Cause it. E come ogni buona discoteca degli anni Ottanta che si rispetti, no? Dopo un disco veloce c'era un lento. C'era un lento. Disco... E lì si andava di saliva, eh. Ma Mippo, baciami e portami a ballare. Poi il disco struscio, mi devo preoccupare. Alla grande, veramente. Hai spento anche le webcam, quindi non vorrei. Non pensate male, non pensate, sia in buona fede. Questo è il disco struscio di oggi. Un bel successo degli Aerosmith del 1997. Contenuto tra l'altro anche in un doppio CD molto bello con tutti quanti i grandi classici degli Aerosmith. Parliamo di I Don't Want to Miss a Thing. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Dream again. The sweetest dream will never do. Service in diretta su CRM Happy Radio con Filippo Brancato e Max Lanotte. Gli anni 90, questo fu uno, il penultimo album, credo, dei Lil Tip assieme prima dello scioglimento. Mamma mia, il diablo! Amico! Che voce, Piero Pelù, mamma mia, paura veramente. Grande artista, devo dire veramente un grande artista. Grande artista, è vero. Interprete, interprete. Interprete anche autore, cantautore, anche autore, sì, lui scrive e canta anche canzoni. Tra l'altro ha fatto anche appassionato di Beatles, una canzone dei Beatles, Revolution, molto carina, non so se l'hai mai sentita. Questo non lo sapevo. Sì, sì, molto bravo. Ascoltarti è sempre una cosa buona, non si finisce mai di imparare con te. Grazie, cara, grazie, grazie. Parliamo adesso di eventi. Dove tirar tardi? Gli spettacoli, la musica dal vivo. Bene, bene, bene. Allora andiamo a parlare subito di alcuni eventi. Intanto vi segnaliamo l'evento di giorno 27 di agosto a Cefalù, all'Arena Daphne, con lo spettacolo Cefalus Sorridente, che vedrà insomma la, il susseguirsi sul palco di tre artisti, due della nostra terra e uno laziale. Parliamo di Massimo Bagnato, simpaticissimo artista di Zelig, ti ricordi? Ma lui è veramente un grande, no? Lui è veramente... Chi lo conosce? Il a, chi, a chi piace Radio Service? Chiama Radio Service, chi pensa che io stia dicendo fandonie? Esattamente, Massimo Bagnato. Poi avremo Francesco Scimemmi, che abbiamo sentito poc'anzi al telefono da Antenna Sicilia, dalla trasmissione insieme di Salvo la Rosa, con uno spettacolo davvero veramente incredibile. E poi Sasa Salvaggio, che farà da collante per tutti e tre gli artisti, anche lui con un suo spettacolo. Insomma, tutto quanto questo in un'unica sera per la serata di Cabaret del 27, del 27 agosto, martedì 27 all'Arena Daphne, con un ingresso di 8 euro. Tutto questo con 8 euro è veramente da casa del popolo, brancato. infatti. Questa meraviglia di artisti con questo prezzo, assolutamente, è da casa del popolo, è veramente. Vero. Poi tra l'altro, insomma, l'Arena Daphne, non so se siete mai stati, è un posto molto bello, si sta veramente al fresco, sotto le stelle, un posto meraviglioso, un posto, il posto ideale dove trascorrere una bella serata, no? Per rilassarci un attimino di tutto gli stress dell'estate, il pensiero di tornare a lavorare. Prendiamoci un momento per ridere, per rilassarci, andiamo all'Arena Daphne e siamo tranquilli, va bene? Poi un altro evento invece che vi vogliamo segnalare, che è già iniziato in realtà dal 19 di agosto e continuerà fino al 24, è la 23esima sagra del Salgemma a Raffo, un evento molto particolare perché avete la possibilità di andare a visitare un paesino veramente squisito, nelle Madonie, un paese vicino a Petralia, dove appunto viene raccolto il Salgemma, che è un sale praticamente uno delle migliori qualità delle nostre parti. Potete insomma con l'occasione assaggiare dei prodotti tipici, degustare un sacco di prodotti dal cibo al vino, che lì sono quelle parti, quelle serate che vai per vedere intanto com'è che il sale che metti tutti i giorni nell'acqua della pasta, da dove viene. In Sicilia tra l'altro appunto questo sale è tra i migliori assolutamente. E poi sono di quegli eventi dove con la scusa del sale vai a mangiare le cose più buone, infatti, diciamo regionali eccetera, visitando anche questo paesino che è meraviglioso. Infatti uno dei pochi paesi delle Madonie che ancora conserva proprio quella situazione antica, un po' di antica, no? Un po' di passato, dove si trovavano, non lo so, persone anziane sedute fuori dalla porta magari a cucire, quelle immagini proprio storiche della Sicilia, che è bello andare a vedere di tanto in tanto, è bello come dire immergersi nei tempi passati, apprezzare tutto questo di gente che magari ancora non sa cos'è le Piaware, che questo è meraviglioso. Ma poi il paesino, infatti, è bello veramente, molto caratteristico. Infatti, quindi tutti quanti a Raffo dal 19 al 24 di agosto per la 23esima sagra del Salgemma. Tra l'altro concomitanza con queste date c'è il 13esimo raduno del folklore, quindi potrete anche rivivere le antiche tradizioni folcloristiche di varie nazioni, perché so che ci sono diverse nazioni a Raffo dal 19 al 24 di agosto. Altri eventi ne parleremo prossima settimana all'interno di Radio Service. Adesso Hola con I'm in Love, una delle ultime canzoni di questo pomeriggio caldo del mese di agosto. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not, but I'm in love, I'm in love. Somebody curb this Cupid, wake me up or lose me, I messed it up, I messed it up. Wow, turn me upside down, this girl, turn me inside out, this girl, what you want me to say? I messed it up, I messed it up. Excuse me. Le dritte per lo show. Parliamo di shopping adesso, come anticipato, con le amiche di Serio Moda. Buon pomeriggio. Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Oh, buon pomeriggio, Lorenza, vero? Sì, Lorenza. Ormai ho imparato le vostre voci. Bene. Allora, Lorenza, questo pomeriggio nuovamente con noi a Radio Service per parlare, darci consigli su come vestirci questa sera. Cosa ci consigliate di bello? Per iniziamo per i maschietti stavolta? Iniziamo le maschietti. Bene. Sì. Allora, stasera al maschietto farei indossare un bermuda bianco, del Crianzol, quindi diciamo di Carmine Ferraro per intenderci, sì, con una bella camicia jeans manica lunga da risvoltare. Ah, bene. Mocassini o... Mocassino, sì, volendo anche questo diciamo abbinamento possiamo anche mettere un bel mocassino blu. Bluette. Ecco, visto che negli scorsi giorni insomma c'è stato un po' di pioggia, adesso torniamo nuovamente con i pantaloncini, è tornato un po' il caldo, quindi giustamente questo consiglio. Le camicie e jeans andavano forte negli anni 90, sono tornate di moda come tante altre cose. Sì, tantissimo. Bene. Invece per a volte ritornano. A volte ritornano. Invece per le donne, per l'amica donna, questa sera cosa consigliate? Per la donna che in genere è sempre un po' più freddolina rispetto all'uomo, farei invece indossare un bel pantalone modello capri, quindi con diciamo lunghezza alla caviglia e lo spacchetto laterale, bluette, della linea di She by Twin Set, sì, con una diciamo bella casacchina tipo tunica con la manichetta a tre quarti con degli inserti in pizzo colore beige. Ah, molto carino, molto fresco, molto leggero, insomma estivo soprattutto. Esatto. Benissimo, Lorenzo, ti ringraziamo, posteremo poi su Facebook le foto di questi prodotti, sì, li potete trovare fino alle 20:30 da Serio Moda 24 in via Giglio a Cefalù. Grazie. Grazie Lorenza, buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento di serata. Grazie, grazie. Poi volevo ricordare ai nostri ascoltatori che chiaramente se fate il nome di Radio Service avrete un bello sconto su tutti i prodotti di cui abbiamo parlato adesso. Arriva una bella canzone di qualche annetto fa, parliamo di Neck con Se una regola c'è. Mi dici cosa c'è che non va, pensi ancora a quella storia là, lo so già. Si fatica a stare soli, sai che rimango qua finché vuoi, io capisco bene come stai, fossi in te credo che reagirei. Che consigli vuoi da me, se poi fai quel che vuoi te, sai che mai. Check it. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. A brave, brave girl to try. It took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Don't be surprised if I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller. I've been under you too long. If you notice that I'm different, I'm taking personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long. Taking one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Oh, said you look surprised. Hey, if you were a friend, wanna get to know me again. If you were with the wild, you'd be happy to see me smile. Not expecting sorry. Ultima canzone di questo pomeriggio all'interno di Radio Service era Alicia Keys con Brand New Me. Bella voce, davvero bellissima voce, molto calda. Come sulle basi di, sulle note di questa canzone. La voce è bella, invece lei è brutta. Insomma, era ironico, immagino. Vi diamo appuntamento al prossimo lunedì con Radio Service dalle 15 alle 18 con Filippo Brancato e Max La Notte. Prontissimi per lunedì. E infatti, una nuova settimana, l'ultima settimana purtroppo di Radio Service. Poi andremo tutti quanti a quel paese. Non sto scherzando. Grazie Max, buon pomeriggio, buona Ciao, serata. Grazie a tutti. Grazie a voi, buona continuazione su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Vi lasciamo con i Negra Amaro. E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi stesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei.